Savonarola, il frate che stemperò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Angiorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari che nel 1882 vide l'Italia siglare la triplice con la Germania e lette da me che nel 1982 vidi l'Italia siglare la tripletta contro la Germania. D'altra parte, chi gioca di pie paga di borsa se tiene palla in bocca e fiasca in mano. Serio. Capitolo 14. Bistecca alla Fiorentina. Il mese di novembre 1494 cominciava in Firenze con sinistri auspici. La notizia già arrivata dell'abbandono di quelle fortezze, che erano costate alla Repubblica lunghi assedi e spese enormi e che erano la chiave di tutto il territorio toscano, aveva già sollevato il popolo. Il ritorno degli ambasciatori dal campo francese fece poi crescere assai più il furore di tutta la città. Essi raccontavano quanto facile sarebbe stato ottenere dal re patti onorevoli, con quanta viltà e con quanto orgoglio nel medesimo tempo Piero dei Medici aveva messo l'intera Repubblica nelle mani di Carlo VIII e senza neppure interrogarli. I discorsi erano perciò in Firenze tutti pieni di sdegno e il popolo cominciava a radunarsi nelle piazze e nelle vie. Si vedevano nella folla comparire di nuovo certe vecchie armi, tenute nascoste per più di mezzo secolo, qualche pugnale che si vantava d'essere stato vibrato in Duomo il giorno della congiura dei Pazzi. Uscivano dagli opifici dell'arti della lana e della seta alcuni di quegli uomini forti, tarchiati e con visi terribili che rammentavano ancora i ciompi di Michele di Lando. Pareva quel giorno che si fosse, come per incanto, tornati un secolo addietro e che quel popolo, il quale aveva per 60 anni sopportato così pazientemente la tirannide, fosse ora deciso di correre al sangue e alle armi per riconquistare la sua libertà. Se non che in quello universale furore una universale incertezza e diffidenza dominava gli animi. I Medici, è vero, non avevano lasciato alcuna guardia in Firenze e il popolo poteva d'ora in ora impadronirsi di tutta la città, ma esso non sapeva di chi fidare, a cui lasciarsi condurre. I vecchi amici della libertà erano quasi tutti morti nei 60 anni trascorsi fra gli esili, le condanne e le persecuzioni. I pochi che ancora si intendevano dello Stato erano uomini vissuti sempre col favore dei Medici e la moltitudine, uscendo dalla servitù, non poteva per se stessa se non trascorrere alla licenza. Era quindi uno di quei momenti terribili in cui a nessuno è dato vedere quali eccessi, quali fatti atroci possono d'ora in ora commettersi. Il popolo scorreva tutto il giorno incerto per le vie come un fiume impetuoso, guardava con occhio sinistro le case di quei cittadini che avevano accumulato ricchezze con l'oppressarlo, né aveva altra direzione sicura se non che in sull'ora della predica raccoglievasi tutto nel Duomo. Ivi non s'era mai vista la gente accalcarsi così stretta. Gli uni pigiavano gli altri sino a che non si potevano più muovere, e quando il Savonarola saliva finalmente sul Pergamo, egli era come sopra un piano fitto e immobile di teste che lo riguardavano. Si vedeva dipinta su quei volti un'insolita fierezza, un'insolita concitazione, e a qualcuno di sotto al lucco rilucere la corazza. Quel frate era il solo uomo che potesse in quei giorni comandare alla moltitudine, la quale sembrava pendere dalle sue labbra e da lui solamente aspettare la sua salvezza. Una parola inconsiderata uscita dalla bocca di lui avrebbe potuto mandare a sacco le case dei più potenti cittadini, ricominciare l'antica storia delle guerre intestine, far versare dei fiumi di sangue. Già che molte erano le ingiurie dal popolo ricevute e grande il desiderio della vendetta. Egli si astenne perciò da ogni discorso politico, ma col cuore riboccante d'affetto, con ambe le braccia aperte, con la persona sporgente dal Pergamo, con una voce che rimbombava in tutta la chiesa, predicava la pace, la carità, l'unione. «Ecco, la spada è venuta, le profezie si verificano, i flagelli cominciano. Ecco, il Signore conduce questi eserciti. O Firenze, è cessato il tempo dei canti e dei balli. Ora è tempo di piangere con fiumi di lacrime le tue colpe. I tuoi peccati, o Firenze, i tuoi peccati, o Roma, i tuoi peccati, o Italia, sono causa di questi flagelli. Fate adunque penitenza, fate limosina, fate orazione, fate unione. O popolo, io ti sono stato in luogo di padre, sommi affaticato tutto il tempo della vita mia a farti conoscere le verità della fede e del ben vivere, e non ho avuto altro che tribolazioni, scherni ed obbrobrio. Almeno mi fosse dato il compenso di vederti far le buone opere. Popolo mio, che altro ho mai desiderato che vederti salvo, che vederti unito? Fate penitenza, perché avvicina il regno dei cieli. E così egli andò innanzi, predicando la carità, la fede, la concordia degli animi, con tanto impeto, con tanta forza, che ne restò più giorni esausto e quasi ammalato. Quei sermoni non furono dei più eloquenti, perché l'agitazione toglieva luogo alla riflessione e all'arte, ma l'affetto con cui furono pronunziati dominava, soggiogava quel popolo che, dopo il tumulto delle strade, veniva in luogo di pace ove udiva parole evangeliche. Tanta fu la forza che ebbe in quei giorni la voce del Savonarola che fra sì gran tumulto di passioni popolari non si trascorse ad alcun eccesso e la rivolta che sembrava apparecchiarsi tumultuante e pericolosa nella piazza si compie tranquilla e pacifica nel palazzo. Miracolo nuovo nella storia di Firenze che tutti gli storici di quel tempo attribuiscono al benefico ascendente che il frate di San Marco seppe acquistare sul popolo. Il giorno 4 di novembre, adunque, la signoria raccolse i più reputati e prudenti cittadini in palazzo per consigliarsi sul partito da prendere. La legge e l'antica usanza della Repubblica portavano che a niuno fosse permesso di prendere la parola se non ne veniva richiesto dai signori, ed allora doveva discorrere in favore del partito che essi proponevano. Nei momenti di tumulto, però, né questa né altra legge fiorentina veniva rispettata. Quel giorno gli animi erano pieni d'agitazione, trattavasi della salute della patria, la signoria domandava consiglio a ognuno e tutti volevano parlare. Pure tanto la lunga servitù aveva legato gli animi che quando Messer Luca Corsini ruppe l'antica usanza e senza esserne personalmente richiesto, levatosi in piedi, cominciò a dire che le cose andavano male, che la città rovinava nel disordine, che bisognava prendere qualche rimedio efficace, la maraviglia fu universale. Qualcuno sussurrava, qualche altro tossiva e finalmente a lui si avviluppò in modo la lingua in bocca che egli non potette procedere più oltre. Il discorso però fu subito ripreso da Tanai di Jacopo De Nerli, giovanetto assai animoso, il quale rinforzava le parole del Corsini, ma anche a lui cominciò a tremare la voce ed il padre allora, levatosi in piedi tutto confuso, lo scusava appresso i colleghi dicendo non badassero alle sue parole perché egli era giovane e di poca testa. Si levò finalmente Piero di Gino Capponi, la sua persona ben quadrata, il capo canuto, gli occhi fiammeggianti e una certa aria di allegra fierezza, come di destriero che ha udito il suono della tromba guerriera, fecero rivolgere verso di lui tutti gli sguardi e tacere ognuno. Lo sapevano uomo di parole brevi ma risolute, e di fatti ancora più risoluti. Egli parlò chiaro e disse: Piero de' Medici non è più capace a tenere lo Stato, la Repubblica deve provvedere a se stessa, ormai è tempo d'uscire di questo governo di fanciulli. Si mandino ambasciatori a reccarlo, i quali se incontrano Piero non lo salutino ed espongano come tutto il male è venuto da lui e che la città è amica del nome francese. Si facciano uomini d'onoranza, i quali non manchino di ricevere il re con ogni festa, ma nello stesso tempo si chiamino dal contado i comandanti coi loro soldati e si nascondano nei chiostri o d'altri luoghi segreti e insieme con le genti d'arme si tengano parati al bisogno. A ciò che quando non si è mancato per nulla in quello che è onesto con questo cristianissimo principe, né tralasciato di contentare con danari la vara natura dei francesi, si possa, ove egli trascorra atti e pensieri non comportabili, mostrargli il viso e l'armi. E sopra ogni altra cosa, egli disse concludendo, non si manchi di mandar con gli altri ambasciatori il padre Girolamo Savonarola, il quale ora ha tutto l'amore del popolo. E poteva aggiungere ancora tutto il rispetto del re, perché questi aveva davvero concepito una quasi religiosa venerazione per quel frate che da tanti anni predicava la sua venuta dicendo la ordinata dal Signore. Il 5 novembre furono eletti gli ambasciatori, tra i quali erano il Capponi medesimo, il giovane Nerli ed il Savonarola. Questi lasciò che gli altri partissero subito per Lucca, ove speravano di incontrare il re, ed egli con due suoi frati li seguì a piedi, come era suo costume di viaggiare. Ma prima di muoversi parlò di nuovo al popolo e fece un sermone che concluse con queste parole: «Il Signore ha esaudito le tue orazioni, ha fatto pacificamente seguire una gran rivoluzione. Egli solo è venuto in aiuto della città quando tutti l'avevano abbandonata. Attendi e vedrai i disastri che seguiranno nelle altre città. Persevera dunque, o popolo di Firenze, nelle buone opere, persevera nella pace. Se tu vuoi che il Signore perseveri nella misericordia, sii misericordioso verso i tuoi fratelli, verso i tuoi amici, verso i tuoi nemici, altrimenti cadranno anche sopra di te i flagelli che s'apparecchiano al resto d'Italia. Misericordia in volo, grida a voi il Signore, guai a chi non ubbidisce ai suoi comandi!» Fatta questa predica, si partiva per andare alla volta di Pisa, giacché gli ambasciatori arrivati a Lucca avevano trovato il re sul punto di partire, onde, dopo averlo salutato, lo seguivano in quella città.